Ciao a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Radiobook, il programma degli scrittori della Porta Accanto in collaborazione con Radio Big World. Oggi la nostra Elena Genero Santoro ci propone un editoriale sull'odio. Parlare di odio significa parlare di tante cose. Iniziamo con quello che è successo poco prima di Natale, ovvero l'attentato di Berlino, proprio il 22 dicembre, e terminiamo poi con tutto quello che sta accadendo sul web. Colpire attraverso un attentato significa togliere il sorriso alle persone, togliere loro la possibilità di divertirsi, di godersi la vita e di essere felici. Si tratta di un odio che ci vuole morti, e che sia una morte fisica o che sia una morte interiore poco importa. L'odio purtroppo però pervade tanti aspetti della nostra società. Infatti esistono tipi di odio molto subdolo, che si tratti di un partner violento, di una collega velenosa o che si tratti di un vicino di casa. L'odio è meschinità, meschinità casereccia nel caso del web. E bisogna farsene una ragione. C'è un thriller bellissimo di qualche anno fa, L'uomo senza ombra, in cui Kevin Bacon interpreta uno scienziato che facendo esperimenti su se stesso diventa invisibile. Il problema è che poi non riesce più a trovare il modo di tornare normale. Nella nevrosi dell'attesa, mentre il suo team lavora strenuamente e senza risultati per cercare una soluzione, lui diventa sempre più cattivo e compie azioni orribili, come stuprare una donna, perché tanto ogni suo gesto resterà impunito e quindi lui non dovrà mai renderne conto. Non gli importa in realtà se specchiandosi al mattino non troverà un volto al di là del vetro. Non ci sarà niente a giudicarlo. L'invisibilità lo ha reso completamente psicopatico. La certezza dell'impunità, come possiamo vedere in questo film, che si tratti di una certezza legale o personale, scatena gli istinti più biechi dell'uomo. Ed è quello che succede nel web, dove chi commenta articoli, fatti o opinioni altrui non si rende nemmeno conto che i suoi insulti, più o meno gratuiti, arriveranno e offenderanno persone reali. Forse invece ci si rende conto di questa cosa e proprio per quello si prova più gusto a farla, e tra le due non si sa quale sia l'opzione più preoccupante. Di persona però si è costretti a trattenersi, non si possono compiere atti poco gentili perché c'è il rischio di querela. Invece sul web c'è la voce a chiunque. Pensiamo a Enrico Mentana, che un po' di tempo fa aveva deciso di eliminare il suo profilo Facebook proprio perché era stanco dell'odio che i social network generavano. Dopo aver creato l'appellativo Webety, ha deciso di eliminare il suo profilo. È tornato sul web un po' di tempo dopo, e ora è più attivo che mai. Ha deciso di battersi contro quelli che scrivono per sfogare i loro livori e le frustrazioni, coperti dall'anonimato. Il problema è che il proliferare di casi, più o meno gravi, diventa sempre maggiore. Pensiamo al recentissimo post del medico Roberto Burioni, che è un divulgatore a favore dei vaccini, che sulla sua pagina Facebook ha cancellato tutti i commenti degli utenti sotto il post, spiegando che la pagina non è un luogo dove la gente che non sa nulla può avere un civile dibattito. Infatti quello è un profilo personale di una persona che è un professionista del settore, e quindi riguardo questi argomenti sui quali lui lavora da 35 anni, non ci si può permettere di esprimere qualsivoglia tipo di giudizio o di opinione che non sia supportata da nozioni scientifiche. Rendere accessibili i concetti, che è quello che fa Roberto Burioni, è di fatto cercare di portare una scienza molto settoriale al grande pubblico. Esistono molti altri casi che stanno prendendo piede sui social network, basti pensare a quello dei gruppi Facebook in cui una serie di utenti, che si tratti di persone con profili falsi o di profili reali usati dalle persone quotidianamente, si raccolgono per rubare fotografie da loro amiche o da profili di persone che non conoscono e poi stuprarle virtualmente. Si tratta di qualcosa contro cui si è scagliata Selvaggia Lucarelli e, a torto o a ragione, ha deciso di rendere noti i nomi delle persone che fanno parte del gruppo e degli amministratori dei gruppi. Le polemiche non sono tardate ad arrivare, perché secondo tanti la persona stessa che sta portando avanti questa battaglia non è idonea, visti anche i suoi trascorsi con il video pornografico di Belen. Si parla però di tantissimi ambiti e spesso sono ambiti che giuridicamente potrebbero essere perseguibili, ma troppo giovani e troppo labili per ora, per essere realmente definiti. Spesso si parla di denunciare alla polizia postale. In tanti però rispondono che denunciare alla polizia postale significa andare lì per poi sentirsi dire che tanto non si finisce mai ad andare realmente in giudizio. Questo è qualcosa che Mentana stesso ha pubblicato in uno dei suoi post, proprio inerenti a questi gruppi Facebook. E allora qual è la soluzione? Se il dialogo non esiste, e per quanto la nostra notorietà possa portarci in là con le visualizzazioni dei post e con le condivisioni, comunque non può marcare delle conquiste che siano anche legali e che portino poi ripercussioni concrete sulla nostra vita, ripercussioni positive. Secondo la nostra Elena, quindi, l'idea migliore è ignorare, tirare avanti per la propria strada e continuare a fare onestamente il proprio lavoro, quindi far capire ai cosiddetti leoni da tastiera che le loro parole si disperderanno nell'aria e che i loro commenti non contano nulla. E in caso di minacce serie, bisogna sempre riservarsi di far partire una vera querela e di portarla avanti seriamente fino alla fine. Su una nota più felice, invece, parliamo di Instagram. Instagram è una piattaforma di condivisione di fotografie che di solito non permette di programmare i post. Però l'inventore australiano Hugh Stevens ha trovato un modo di iniziare a programmarli e noi siamo stati così fortunati da poterlo intervistare. Poco meno che trentenne, nel corso della nostra intervista, il fondatore di Dialog Group ci ha raccontato come è nata la sua invenzione. Shadowgram è nato nel 2010, quando Hugh Stevens ha fondato Dialog Group. Moltissimi clienti continuavano a chiedergli se non si potesse in qualche modo, qualunque modo, programmare i post su Instagram. Infatti Instagram è molto popolare all'estero ed è uno dei social network più sfruttati dalle imprese e dalle associazioni. Purtroppo Instagram non permetteva assolutamente di programmare i post, al contrario di Facebook, avevano una policy molto severa contro lo spam e c'è tuttora questa policy. Così nel 2013 Yu ha pensato di inventare Shadowgram. Non permette propriamente di programmare i post, ma permette di programmare il tablet affinché effettui automaticamente l'accesso all'account Instagram in questione e a una certa ora posti quello che è stato preparato. Yu ha una decina di tablet in casa sua e fanno solo ed esclusivamente quello. Programmano i post per i suoi clienti, gestiscono migliaia di post per centinaia di account. La tecnologia infatti è qualcosa di prezioso, secondo Yu è qualcosa che fa parte innegabilmente del nostro futuro e quindi dovremmo imparare già da subito a sfruttarla al meglio. Non è solo ai giovani però che la tecnologia fa bene. Infatti ci sono un sacco di persone, come ci racconta Yu, che sono assolutamente negate per la tecnologia, nonostante siano nate in anni in cui le invenzioni tecnologiche sono sempre più numerose e sempre più vicine l'una all'altra. Ci sono anche tante persone di età adulta che fanno meraviglia con il PC perché hanno abbracciato sin da subito questo nuovo modo di fare affari, questo nuovo modo di rapportarsi con la comunicazione. Utilizzare Facebook e i social network per promuovere il proprio business, quindi non più per scopi personali, è possibile ed è un'idea sensata. Secondo Yu bisogna essere creativi e in un certo senso personali. La personalità è qualcosa che deve venire fuori dai post, ma c'è una bella differenza tra diventare troppo personali e quindi inappropriati e un uso saggio, moderato, di un mezzo divertente per scopi professionali. Ad esempio, mostrare la propria scrivania è qualcosa di non del tutto anonimo, ma non è esagerato. Da un punto di vista personale, Yu ci racconta che i social network possono essere un'arma a doppio taglio. Infatti lui non è mai stato un grande utilizzatore di Facebook, ma è molto attivo su Twitter e su LinkedIn. Il punto è che quando qualcuno va a fare un colloquio con Yu, nella speranza di essere assunto, Yu solitamente ha già controllato i profili su tutti i social network della persona e se ha un blog personale probabilmente è anche andato a dare un'occhiata. I social network sono quindi un modo per conoscere una persona prima ancora di conoscerla e questo si ripercuote sia in ambito personale che in ambito professionale. Quindi bisogna sempre ricordare di avere cura dei propri spazi virtuali. Da non dimenticare, poi, bisogna mettere passione in tutto. Infatti, Yu incoraggia i giovani ad inseguire i propri sogni, a ricavarsi uno spazio per studiare e concentrarsi su ciò che veramente ci appassiona. Conclude infatti con un consiglio. Vorrei solo dire che tutto, ma davvero tutto, richiede duro lavoro e impegno. Se non si ama ciò che si fa, si rischia di diventare frustrati molto rapidamente. Quindi scegliete qualcosa che amate. Lo dico soprattutto a chi sta scegliendo un percorso universitario o si appresta a cercare lavoro. Abbiate ben chiaro che cosa volete fare della vostra vita. Siate certi che quello che state scegliendo vi farà stare bene ogni giorno, perché ci saranno mille momenti che vi metteranno a dura prova e se dietro non c'è una passione reale, tutto rischia di finire male. Anche oggi, come in ogni altra puntata, sceglieremo un estratto per salutarci. L'estratto di oggi è tratto dal Ponte delle Vivene di Davide Dotto. Non era la prima volta che la Gisella sgattaiolava fuori di casa. Qualunque fosse il nascondiglio, Enzo andava a prelevarla e lei, ammansita, si lasciava condurre. Da ultimo si rifugiò tra il fieno di una cascina incustodita, a due passi da chi la cercava nelle vicinanze, e poco mancò che la infilzasse col forcone. Stavolta no, si ripromise, non le avrebbe buscate. Tremava di paura nel pensare alle bastonate, ai calci e ai pugni che non le avrebbe lesinato. Avrebbe potuto ammazzarla uno di quei giorni se avesse mirato in alto, alla tempia, dove diceva riposasse la memoria. Non le importava di trascorrere la notte fuori, piovesse o gelasse. L'importante era fuggire da quelle mani bastarde che si chiudevano a tenaglia sul collo o si serravano sui fianchi a pinza. Enzo, uno scioperato avido di vino bevuto dai fiaschi, se non gli si consentiva di fare ciò che gli frullava in capo, dava di matto. L'aveva sposato, che era l'uomo più bello e frivolo del paese, per fare un dispetto a sua madre. Col matrimonio, però, la favola era presto finita. L'affetto che Enzo diceva di provare per la giovane moglie aveva lasciato spazio a sentimenti di diversa natura. Dopo mezzogiorno fuggì di corsa dal marito, che la rincorreva per la piazza strepitando e alzando contro di lei le braccia, menando colpi col bastone. Non ebbe il coraggio di incalzarla fino alle colline. Ella cominciò a salire, incespicando per la paura che la raggiungesse. Quando arrivò al castello, la Gisella si acquietò, perché giratasi non scorse l'inseguitore. Il portone del castello, lo stesso che di solito si mostrava sprangato a chi avesse l'ardire di avvicinarsi, era socchiuso. La Gisella vi si introdusse con cautela, le si spalancò una sala larga, in fondo alla quale ardeva un fuoco azzurro. Le finestre erano accostate e lasciavano filtrare dall'esterno un filo di luce. Si aspettava di essere invasa dall'odore di cose vecchie e di muffa, oltre che dalla polvere. Invece le narici furono accarezzate dal profumo del legno verniciato, misto a quello dei fiori freschi. D'istinto aprì gli infissi, in modo che ogni angolo della sala venisse rischiarato. A un tratto distinse il drappo di un mantello poggiato su una poltrona gibosa e avrebbe giurato che un attimo prima non vi fosse. «Che stregoneria è mai questa?» le scappò detto. «Beh, che importa, io da qui non me ne vado». Attirata dal riverbero che illuminava il mantello, si avvicinò, sfiorò il tessuto con prudenza e poi lo agguantò appropriandosene. L'ordito, rigido in apparenza, al tatto si distese. Bastò poco perché le cingesse le spalle chiudendosi sul petto. E difficile fu raccogliere le frange affinché non le impicciassero nei movimenti, che sventolavano un po' da tutte le parti. La foggia era antica, di almeno 200 anni, priva di strappi e teneva caldo. Cessò di rimpiangere i tessuti dei mercanti che non poteva permettersi. Nessun vestito di pizzo orlato avrebbe potuto competere col senso di potenza e benessere che la invase. «Uno specchio! Ci sarà pure uno specchio in questo castello!» Ciò detto, fece il giro delle stanze, alcune sontuose, larghe, altre strette, simili a sacrestie e a santuari disabitati. Entrò da ogni porta, aprì molte finestre, finché fu in una stanza colma di specchi, che ne raddoppiavano il volume. Era soddisfatta dell'effetto, rassomigliava alla nera signora di un'antica leggenda di Re Salomone. Ciascuno specchio sembrava vivere una vita propria. Da bambina aveva amato l'idea di essere non una soltanto, ma 100 o 1000, e all'inizio tutto le parve bello e fascinoso. Seria e affaccendata, si scordò del paese, dedicò il resto della giornata a ispezionare il maniero. Visitò e scandagliò ogni anfratto senza trascurare nulla, le alabarde e gli stendardi scoloriti. Si impegnò in grandi pulizie. Uscì per attingere l'acqua da un vecchio pozzo, trovò spazzole e stracci e poi un pezzo di sapone dimenticato. Era pronta ad affrontare la polvere, i topi e le ragnatele. Casomai il padrone, se ve n'era uno, si fosse preso la briga di presentarsi, si sarebbe offerta come sguattera a tutto fare. Non insegnavano forse questo le favole che si raccontano a Filò? Tolse dalle sale i tappeti, li stese sui balconi e poi li ripose la sera al loro posto. Si ritirò nel solaio e da lì scatenò una cascata d'acqua insaponata che inondò le scale. La prima notte non fu facile. Prima di coricarsi sprangò per bene il portone e le finestre, che non si sa mai. La luna illuminava a mezzo cielo ed era già passata mezzanotte. Le fu impossibile levarsi il mantello. Le frange le si riavvolsero in vita. I lembi appena discosti la strinsero in una robusta presa. Solo il capo rimase nudo. Lesse lo sconcerto e la paura nello sguardo che gli specchi le restituirono. Non mancarono di intimorirla gli echi che si diffondevano dalle segrete, giungendo ai piani superiori. Da qualche parte vi era un pertugio che scavava la montagna, da cui spirava un vento che suonava zufolo. Che fosse questo il lamento antico, il pianto triste della vivena di cui si parlava? La mattina presto recuperò ciocchi di legna per i giorni a venire. Si abbeverò alle sorgenti, si cibò di bacche e radici, di erbe che cuoceva in pentolino di rame e di frutta passa. Non temeva la fame, non temeva neppure la sete, si sentiva forte. Non vedeva l'ora di scendere in piazza, di vedere come se la passava la gente di sua conoscenza e di mostrarsi tra poderi e prati, di esibire i segni della sua rinnovata bellezza. Vestita da vivena, nera e paurosa, nessuno sarebbe rimasto impassibile al suo passaggio. Le rughe che sin dall'adolescenza le solcavano il volto si diradarono. La figura ne beneficiò all'istante. Il piglio era severo e nelle pupille brillava una nuova luce. Anche le guance si riempirono, la schiena si fece dritta, l'incedere elegante. Le inquietudini delle prime settimane si affievolirono presto. Nessuno le chiese conto di nulla. Vediamo di chi mi potrò vendicare. Di quella vacca altezzosa che mi ha offeso al mercato? Dell'insolente che mi ha rubato il posto in chiesa? Dell'imbecille che mi ha... E avanti così. Assaporando il suo nuovo stato. La Gisella voleva tornare in paese e riscuotere il credito da chi le aveva fatto del male. primo tra tutti il disgraziato del marito. A queste riflessioni le avesse tremò di ribellione e un pensiero molesto angariò la ragazza. Tu desideri solo vendicarti di chi ti ha fatto torto. Alla Gisella mancò il respiro. Nessuno aveva parlato. Quel moto di rimprovero era immerso tra le pieghe della sua mente, un rigurgito di una coscienza che non le apparteneva pienamente. Più tentava di contrastare la volontà del mantello, perché di questo si trattava, e più esso si incollava alla pelle, avvinghiandosi alla sua persona. Scoprì presto che se poteva muoversi a suo piacimento tra le stanze del castello, visitare il prato, attraversare il ponte di corda, c'era una forza inaudita che le impediva di scendere a valle. Ci provò e ci riprovò finché, impietrita, gridò con tutto il fiato che aveva in gola senza che le uscisse un solo suono. Presa da una furia improvvisa, lottò contro la presenza che le avvolgeva nell'unico modo che ritenne possibile. Scappò dal castello, attraversò il ponte, corse nella direzione delle montagne in cerca di un pertugio. Volava senza correre. Si introdusse nel bosco, raggiunse i rilievi che si aprivano ai fianchi. Non avvertiva fatica, non avvertiva spossatezza e non cessò di arrampicarsi tra le rocce con passo leggero. La salita fu lieve, scavalcò con andatura vertiginosa le pareti pietrose senza che si accorciasse il respiro. L'aria divenne fresca, fino a farsi gelida e tagliente. Si ritrovò su una cima sconosciuta, regno di ghiacci perenni, luogo inospitale persino per le radici che non riuscivano ad attecchire. Di solito scorreva un tumulo di nuvole che si raccoglievano compatte, alle quali rispondeva la condensa che le usciva dalle labbra. Il bianco che si distendeva davanti le fece chiudere le palpebre. Il sole picchiava forte. Si sentì parte di una biologia diversa, che coinvolgeva e abbracciava le cose. Non fu facile abituarsi. La Gisella tentò di scrollarsi il mantello, pronta a gettarlo via da sé. C'era l'impeto di una rabbia che ancora la invadeva. Inaspettatamente la veste non oppose resistenza. Così facendo un freddo intenso penetrò nelle ossa, sin dalla punta del naso. Il cuore prese a battere all'impazzata e non le riuscì di respirare. Una morsa le strinse lo stomaco, fu colta da sussulti e si sentì mancare. Rinfilò in fretta il mantello, ma non prima che il gelo scorticasse le mani. La Gisella non ebbe la necessità di porre domande. Le risposte le giunsero da quel barlume di coscienza che condivideva, fino a capire chi era diventata. Non lei, comprese, ma il mantello l'aveva condotta fin lì. La donna che si trovava in equilibrio su uno sperone di roccia era la Vivena. Poco importava il suo nome, si chiamasse Vincenzina o Gisella. Il suo animo si divise tra emozioni contrastanti. Voleva tornare indietro, ma continuò a indugiare su quel mare di cielo e nuvole intorno all'isola di pietra che l'accoglieva, con il sole che assomigliava alla punta di una lancetta invisibile. Segnava il tempo e si muoveva sul quadrante tra l'alba e il tramonto, passando poi per mezzogiorno. Sapeva che sotto il cielo indaco avrebbe potuto scorgere i nidi delle aquile, e le aquile sopra quelli. Avrebbe intravisto distese di foreste che sembravano prati, e villaggi delle valli non più grandi di sassolini sparsi. Tra quei puntini informi ogni cosa perdeva la sua consistenza, assumeva le forme di un tutto indistinto. Lassù in cima si sentiva padrona di non sapeva esattamente cosa. Le sembrava di perdersi dentro una volontà incontrastabile, impalpabile e capricciosa. Dalla Vivena imparò quanto fossero piccoli gli uomini. Ignari di loro stessi proiettavano il loro destino oltre la terra. Riempivano il cielo di segni, di occhi, di braccia, di dei e di troni sui quali farli sedere. Speravano che spostando altrove la sfera dell'ignoto ne avessero alla fine meno paura. Chi avesse però perlustrato a dovere quelle altezze si sarebbe reso conto della realtà. La terra era piccina, mentre il cielo, così spopolato, appariva un'ampia distesa desertica. Al contrario del mare non era solcato da navi e premeva sulle valli come un coperchio. I troni sui quali le divinità dovevano sedere, ovunque fossero, erano vuoti. Non vacanti, ma terribilmente vuoti. Sembrava così scontato che i numi aleggiassero sulle nuvole, e invece il loro soffio si era disperso, tra la terra e i sassi, e vi camminavano sopra i mortali. Persa in questi pensieri, mise un piede in fallo, ma non cadde. Riportami al castello, sussurrò la ragazza. Si accorse che il vuoto che aveva sotto non la spaventava. Scese di un passo, poggiò il piede su instabili sporgenze e non perse mai l'equilibrio. Abbandonò a poco il picco del ghiacciaio. Non ebbe difficoltà a ripercorrere a ritroso la strada. La Vivena l'aveva attraversata migliaia di volte e in comune con lei aveva la memoria di queste e altre cose. Riconobbe i boschi nei quali si era addentrata, le alture che aveva già oltrepassato. In capo a un'ora fu sulla via del castello. Raggiunse la sua strada, ravvivò il fuoco e poi si addormentò. L'estratto che abbiamo letto era di Davide Dotto. Vi salutiamo e ci vedremo alla prossima puntata. Ciao!